Musica Maestro di Armando Torno. Un cordiale saluto da Armando Turno e un augurio di buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. La puntata di oggi è in collegamento con due personaggi, due figure del mondo accademico, ma non soltanto: la professoressa Ines Testoni dell'Università di Padova, psicologa, e il professore Emanuele Severino, che è uno dei più noti filosofi del nostro tempo. Parleremo di musica, ma non soltanto, anche perché a Padova la professoressa Testoni sta organizzando un convegno sulle religioni. Ma sentiamo un po' dalla sua viva voce e innanzitutto cominciamo col salutarli. Buonasera signora Testoni, buonasera professoressa. Buonasera, buonasera Armando Torno. Buonasera professor Severino. Buonasera a lei e alla signora Testoni. Benissimo, ecco, ora che ci siamo salutati, io volevo chiedere un po' alla signora Testoni quando comincerà questo convegno e di che cosa si tratta, perché lei dirige anche un master molto importante tra l'altro. Dirigo il Master Death Studies and the End of Life, ed è sugli studi sulla morte e il morire, il fine vita, ma anche oltre ovviamente. E il congresso, che si terrà dal 25 al 28 di settembre a Padova, organizzato all'interno del Master, è il sesto di questa serie di congressi che organizziamo tutti gli anni all'interno di questo percorso di formazione, quest'anno si dedica al dialogo interreligioso, ma anche alle possibilità, diciamo così, di discutere a secondo prospettive differenti che cosa significhi vedere oltre. Infatti il titolo del congresso è Seeing Beyond in Facing Death, cioè vedere oltre dinanzi al morire. Abbiamo relatori che vengono un po' da tutto il mondo e i nomi più importanti del pensiero italiano si incontreranno per discutere di questo tema. Tra i quali c'è appunto il professor Severino. Esattamente. Ma avete anche buddisti, protestanti, islamici, ebrei, oltre che ovviamente dei cattolici, diciamo così, dei porporati, mi sembra. Abbiamo Marcello Sorondo, che è diciamo una figura estremamente importante, che dialogherà con il filosofo Emanuele Severino. È importante che io dica subito una cosa in apertura, cioè io ho intrapreso questo percorso così, diciamo così, difficile da affrontare sulla morte e il morire, aprendo assolutamente le porte ad ogni forma di dialogo tra le diverse religioni, proprio perché sono allieva e direi ortodossa del maestro Emanuele Severino. Signora Testoni, professoressa Testoni, so che avete pensato anche alla musica, forse eseguite qualche piccolo brano, qualche cosa, o è in prospettiva questo? Il congresso è strutturato diciamo così, in maniera anidodata, per cui esistono differenti testimonianze. In particolare per quanto riguarda la musica, abbiamo la prima sera la presentazione di un documentario del maestro Franco Battiato, che presenterà Oltrepassando il Bardo. Ecco, lui rientra nel programma con una indicazione di tipo musicale. In questo caso la sua produzione è al di là del musicale, perché presenta anche diciamo questa prospettiva relativa al vedersi oltre la morte, come attraversare il bardo, appunto, vale a dire questa prospettiva orientale. Poi abbiamo i canti mistici delle grandi religioni, il Samba Daham, che viene eseguito da vari diciamo così, esperti di musica corale mistica. E poi abbiamo anche un altro allievo di Emanuele Severino, che è Massimo Donà, che ha dedicato ovviamente alla filosofia della musica molta riflessione ed è tra l'altro anche a sua volta un musicista. Ecco, direi che questi sono i nuclei centrali della riflessione musicale che diciamo accompagneranno il congresso Vedere Oltre. Ecco, io non voglio adesso parlare male così in assenza dei protagonisti, ma mi sembra che Donà avesse anche una sua piccola band e lui suonasse la tromba, no? Sì, lui è un angelo, praticamente Massimo Donà è l'angelo del maestro Emanuele Severino, certo. Ma è un po' anche, diciamo così, colui che introduce delle note a volte dissonanti rispetto, certo, al maestro, certo. Mentre invece io sono rigorosamente ortodossa. Certo, lo sappiamo, ma siamo tutti allievi di Severino, signora Testoni, quindi adesso abbiamo il maestro con noi questa sera. Per me è sempre un onore, ma soprattutto è un'emozione parlare con lui, poi di molte cose. Il fatto che tutti siano miei allievi, ma insomma, sorpresa, ma insomma. Beh, comunque, professore, non posso negarlo che un sacco di cose... No, lei va benissimo, Vabbè, questo mi onora. Onora me, ma il fatto è questo, che adesso rischiamo di fare una trasmissione che verrà ammonita per tutti questi complimenti, professore. Allora, professor Severino, dopo il vespro della Beata Vergine di Monteverdi, effettivamente viene da chiedersi come mai tutto questo genere di musica, tutta questa tradizione, sia stata sacrificata un po' dalla Chiesa Cattolica, dalla religione, diciamo così, che noi pratichiamo, nella quale siamo, diciamo così, vissuti, con la quale abbiamo continui rapporti. La Chiesa ha perso molto, forse, delle sue possibilità e del suo fascino, perdendo questa musica, perdendo le esecuzioni che erano fatte anche nelle più semplici chiese, mi sembra. Ma è un problema più importante di quanto sembri, Ecco. Perché adesso citerò Platone, non perché sono filosofo, ma perché la filosofia c'entra in qualche modo dappertutto. E Platone diceva che il suono deve essere unito al logos, cioè la parola. Poi quando viene il cristianesimo, il logos diventa il logos giovanneo, cioè il verbo incarnato che inizialmente è presso il Padre. E siccome la funzione chiesastica è una rievocazione della festa, allora la musica serve a creare il clima festivo. Se non si sente la parola di Cristo, il suono è da condannare. Certo. Direi alla base del problema al quale lei ha accennato, mi pare che ne parlasse una volta anche con lei, signora Testoni, sta la resistenza che la Chiesa ha sempre opposto all'esecuzione della musica sinfonica. È vero che lei parla della musica di Monteverdi, e penso che avrebbe potuto citare Bach, Handel, certo, cose di questo genere, no? Sì, sì, c'è, ecco, tutta una serie di composizioni sacre. Allora, perché la Chiesa era ostile alla musica sinfonica in quanto tale? Perché nella musica sinfonica non ci sono parole. E allora, la parola di Cristo doveva finire, diventa una cosa di secondaria importanza per dare spicco invece a una manifestazione che diventa così puramente umana. Ora, il fenomeno della dimenticanza di quella musica grandiosa nelle chiese, ma io credo che dipenda, quanto alla specificità di questo problema, dipende un po' anche dall'ignoranza che oggi diffusa tra la gente invade un poco anche le istituzioni ecclesiastiche, senza con questo voler dire nulla di offensivo, ma insomma il livello della gente si è abbassato e è inevitabile che anche nelle funzioni religiose questo livello si sia a sua volta abbassato. Mi pare che tempo fa eseguivano musica rock. Sì, anche adesso ogni tanto c'è qualcosa, qualche performance di quel genere, molte volte. Di questo genere. Non so se ho risposto alla sua domanda. No, certo che ha risposto, professore, anche perché è una risposta che ovviamente lascia tutta una serie di quesiti aperti, perché poi la Chiesa non è più riuscita a ricreare questi miracoli della musica religiosa. E io varie volte ho sentito vescovi, ho sentito anche persone, diciamo così, in posti eminenti della Chiesa, E c'è una lamentela comune di questo abbandono, per questo abbandono, per questo fatto. E si direbbe quasi che la preghiera, la funzione senza la musica sia qualcosa di più povero, di più, diciamo, debole. Sia una domanda fatta al cielo quasi senza, diciamo così, le giuste parole. Ecco, questo è molto bello. Lei dice... La parola senza il suono è qualcosa di meno della parola col suono. Assolutamente. Ecco. Però è anche vero che sin dall'inizio parola e suono sono stati in un rapporto, sono stati in un rapporto conflittuale. Nel senso che essendo due, ognuna delle due ha la tendenza, secondo una dialettica che si presenta in moltissimi altri campi, ognuna delle due ha la tendenza a porsi come scopo dell'altra. Allora, la parola cristiana deve avere come ornamento il suono, cioè la musica, ma a sua volta l'invenzione musicale intende porsi essa come scopo della parola. Di modo che da un lato c'è la volontà di cantare per lodare Dio, dall'altro lato c'è la volontà di lodare Dio per cantare, che sono due cose opposte, certo. Antitetiche. E se posso continuare un momentino, sì, su questa linea, mi viene in mente... Che cos'è, è una situazione analoga, che cos'è quel colosso che è la Divina Commedia di Dante? Ora, Dante passa la sua vita a scriverla, evidentemente perché la parola, come parola cristica, non gli basta. La parola del Cristo occorre che sia rivestita dal suono poetico, altrimenti lui... Non avrebbe dedicato se stesso identificandosi alla sua opera e morendo in qualche modo per essa. Quindi anche qui abbiamo nell'arte in qualche modo l'anticipazione che nei tempi moderni si produrrà della critica della modernità alla religiosità. In questo caso è l'arte che anticipa la modernità, dicendo nel caso di Dante alla parola di Cristo: sì, tu sei la parola, ma tu mi servi per diventare mezzo affinché io pronunci la parola poetica. Ecco, questo mi sembra che questa sia la base in qualche modo del discorso, cioè certo. L'arte come anticipazione della critica moderna, mi sto ripetendo, della critica moderna al religioso. E così in campo musicale questa critica si presenta come la sempre più forte tendenza del sonoro, del musicale, a prevalere sulla parola cristiana e a porsi come scopo di tale parola. La capisco, professore, è un tema che ovviamente dovrebbe essere commentato con una serie di incontri, di situazioni, di riflessioni, perché effettivamente apre una serie di domande che sono, diciamo così, piuttosto... Sì, appunto, detto all'inizio, dicevo, il tema che lei ha toccato con bella nonchalance è molto importante. È molto importante, cioè tocca il cuore della storia della religiosità occidentale. Però io vorrei porre una domanda alla signora Testoni, alla professoressa Testoni, perché ha detto appunto che il tema di riflessione di questo incontro delle religioni sarà proprio anche, oltre ad avere delle musiche, oltre ad avere delle discussioni, eccetera, sarà proprio il tema della morte e del morire, i cui confini la scienza, la tecnica stanno spostando continuamente o a volte lo mettono in dubbio, con tutta una serie di interventi, con tutta una serie di cose. Ecco, a proposito, c'è stato uno dei teorici della musica tedeschi, Adam von Fulda, tra il 400 e il 500 scrive un grande trattato, mi pare che l'edizione che di solito si usa sia del 1501, ma il trattato venne scritto alla fine del 400, un'epoca aurea per molte cose, e in questa diciamo grossa opera dove c'è una serie di considerazioni sulla musica, c'è una frase che mi ha sempre colpito ed è questa, la dico in latino perché è comprensibilissima: musica est meditatio mortis continua. Allora io chiederei alla signora Testoni, poi lo chiediamo anche al professor Severino, che cosa ne pensano di una frase siffatta, di un giudizio così forte, così potente, espresso in poche parole. Signora Testoni. Sì, credo che sia un'affermazione assolutamente pertinente e infatti durante il congresso presenteremo degli esiti di interventi di musicoterapia che in qualche misura servono ad accompagnare persone sofferenti che sanno di dover morire, e là dove non arriva la parola, perché la parola ormai è già da sempre all'interno dell'universo del nichilismo, visto che stiamo parlando con Severino, conviene utilizzare anche le categorie che ha introdotto in questo nuovo linguaggio il maestro. Ebbene, all'interno dell'Occidente la parola detta, la parola raccontata è sempre una parola corrotta. La sonorità, nel momento in cui cade nuovamente nella significazione della parola, inevitabilmente deve fare i conti con la stessa corruzione, però in qualche misura ha il potere di tornare ad una scaturigine originaria, di riportare a quell'iniziare del suono che ha a che fare con l'inizio. Ebbene, ho io stessa guidato dei percorsi di musicoterapia con persone gravemente malate e comunque destinate a concludere il loro percorso. La ricerca scientifica dimostra che laddove la parola non consola, laddove il principio, ma ovviamente stiamo parlando di quei principi dei quali abbiamo esercitato ampiamente il potere, la volontà di dubitare, ebbene, laddove non arriva questo, perché ci arriva la ragione con il dubbio, la musica è capace di oltrepassare. Quindi è meditatio mortis, io direi che autorizza liberamente chiunque in qualsiasi momento di sentirsi capace di gestire e affrontare la consapevolezza di dover morire. Direi che la musica aiuta proprio in questo. Aiuta anche in questo. Ma il professor Severino cosa ci dice invece in proposito? Dunque, prima mi lasci che congratulare con quello che ha detto la signora Testoni. Affiancherei in proposito questa considerazione, che non credo che l'autore che lei ha citato, che Adam von Fulda, ecco, giustificasse la sua affermazione, perché la musica è meditatio mortis, no? Io non conosco quel testo, quindi, ma non credo, non mi sembra che la giustificasse. Non la giustifica, infatti la butta lì proprio. Chi la giustifica è Nietzsche. È Nietzsche e in qualche modo anche Schopenhauer. Ora, perché la musica è meditatio mortis? Dice, qui Nietzsche è al solito grande, perché la musica esprime, e questo lo dice nella nascita della tragedia dallo spirito della musica, Nietzsche a parlare, la musica esprime il continuo sacrificio dell'eroe Dioniso, il quale muore, risorge, muore, e esprime questa destinazione continua delle cose finite a perire perché altre possano sopraggiungere e perire a loro volta. Allora l'immagine di Nietzsche è questa: la realtà è divenire, le cose stanno per un po' nell'esistenza e poi vengono spinte via da altre che a loro volta vi dimorano un poco a loro volta nell'esistenza, e qui è chiaro che Nietzsche sfrutta Anassimandro. La musica esprime il divenire del mondo, in quanto esprime il divenire del mondo, il divenire è appunto il morire delle cose, la musica è meditazione della morte. Ecco, quindi qui Nietzsche si richiama anche a Schopenhauer, e forse è il caso di affiancare questa considerazione di Schopenhauer a quanto abbiamo detto di Nietzsche, che la musica, tanto per ritornare al discorso sul rapporto tra suono e parola, la musica non è un commento alla parola, ma è l'universale originario che le parole del linguaggio che usiamo tentano in una infinità di modi di esprimere. Allora, ci sono le cose di questo mondo, queste sono, Schopenhauer diceva, nelle cose ci sono gli universali, cioè in questa trasmissione c'è l'universale dell'esser trasmissione. Allora, queste sono gli universalia in re. Poi ci sono gli universali che siamo noi, che astraiamo dal caso particolare l'universale, il concetto universale. Ma alle spalle degli universalia in re ci sono gli universalia ante rem, che sono appunto costituiti dalla musica. Di modo che è la parola a esprimere quell'universale, che è la parola del linguaggio comune, che tenta di esprimere quello che in modo, per così dire, assoluto la musica ha detto, e che il linguaggio tenta di tradurre, rovesciando così il rapporto per cui sarebbe la musica a interpretare la ricchezza della parola. Mi lasci dire ancora una cosa a proposito di quella bellissima cantata di Bach, anche se sto saltando di palo in frasca. Quella cantata è, oltre che straordinaria, è interessante, perché è anche un momento in cui le parole si sentono. Certo. E si sentono, e questo è il lato per cui nella dialettica suono-parola c'è anche il momento in cui il suono aiuta la parola. Nella musica la parola è, soprattutto nella musica sacra, ma non solo, anche nella musica operistica, la parola è ripetuta. Quante volte noi sentiamo la stessa frase ripetuta da diverse sequenze musicali? Allora, questo è sì il momento in cui il suono potenzia la parola e ha come scopo la parola. Io prima mi riferivo all'esito globale di questo conflitto, dove ora il suono aiuta la parola, ora il suono dice alla parola sta zitta, o almeno sottoponiti a me che sono il conduttore del senso di quanto stiamo facendo. Non so se mi sono espresso. Sì, sì, professore. Io ricordo anche che stiamo parlando di un convegno che si aprirà a Padova il 25 settembre, e Ines Testonini è appunto l'organizzatrice. Tra l'altro abbiamo chiuso la tranche precedente con una toccata di Paradisi, facendo un omaggio a un parroco che, diciamo così, con una po' di disinvoltura la metteva durante la messa. Non c'è toccata più laica, ma sovente la buona musica, diciamo così, fungeva anche da collante religioso durante i momenti della messa, quando magari era un piccolo brano alato oppure un piccolo brano che ispirava. Io ho voluto rendere questo omaggio a un parroco che ho conosciuto, che insegnava musica presso i Rosminiani e che aveva una passione particolare, diciamo così, per tutta la musica, soltanto che era costretto, anche quando suonava l'organo, a utilizzare i gravi più che gli acuti, perché il cane gli aveva rosicchiato alcune canne dell'organo in chiesa, quindi era un personaggio, diciamo così, che merita tutta l'attenzione e il sorriso, e allora gli perdoniamo anche questa toccata di paradisi. Ma tornando un po' al nostro incontro, signora Testoni e professoressa Testoni, quando comincerà questo convegno, quanti giorni durerà e come si fa a partecipare? E dunque inizia il 25, in apertura ci sarà appunto il professor, il filosofo Emanuele Severino che apre e altresì che chiude, perché si finirà il lavoro di tutte le tavole rotonde, delle relazioni che sono più di 60, il 28 ed è domenica. Ho voluto che fosse proprio in apertura e in chiusura l'indicazione del maestro, perché ovviamente è importante che sia evidente come il pensiero filosofico poi è la matrice di tutte le possibilità di comprendersi e di capire che cosa stiamo dicendo. Stiamo parlando di parole, in questo caso parole essenziali, perché si parla di ciò che viene indicato al di là dell'ultimo confine, quindi è bene intendersi. E chiaramente ci si intende tanto meglio quanto più si riflette sul senso di ciò che si sta dicendo, e questo è sicuramente il compito della filosofia. E appunto, poiché abbiamo la fortuna in Italia di poter vantare il pensiero di Emanuele Severino, mi pare che sia un dono importante per tutti poter ascoltare all'inizio e ascoltare in conclusione la sua riflessione. Sono 4 giorni, sono tanti onestamente. Per iscriversi abbiamo qualche problema perché siamo in overbooking, però stiamo raccogliendo le adesioni di coloro che sono comunque disponibili in caso trovassimo la possibilità di proiettare in differita, quindi in call conference o diciamo così con le strategie che la meccanica e l'elettronica contemporanea permettono, ebbene potremo forse probabilmente accogliere nuove iscrizioni. La cosa importante però è mettersi in contatto con il comitato organizzatore attraverso il sito, che è www.endlife, è scritto endlife.it, che vuol dire fine vita, www.endlife.it, e lì mettiamo a disposizione la possibilità di fare una richiesta di iscrizione all'eventualità appunto di partecipare in sale dove verrà proiettato il tutto, perché quella che è in via Altinate a San Gaetano è già satura di iscrizioni, quindi non possiamo accoglierne più. Discorrendo tra di noi si dicesse che nel cristianesimo non c'è solo la morte ma anche la resurrezione. Certo. E Handel parla appunto, allude appunto a questa circostanza. Ecco, si tratta di vedere se è tutto qui o c'è di più. Per quanto riguarda la fede cristiana e ogni fede, poniamoci due domande. Uno, per risorgere bisogna morire, bisogna diventare niente, perché di per sé le cose sono niente, secondo non solo la fede cristiana. Allora, domanda, è proprio vero che le cose di per sé non sono niente? Seconda domanda, e quella della fede è una promessa, è una speranza, e speriamo che le cose vadano così. Ma l'uomo è soltanto un abitatore della fede o c'è qualcosa di più? È come se in una casa un uomo trovasse un sacco di grano e se ne cibasse e non sapesse che su nel granaio, il granaio è pieno di grano. Che cos'è il grano? È un sapere che non sia semplicemente fede, un sapere che non veda semplicemente la nullità delle cose. Poi, se dovessimo approfondire il senso del granaio, dovremmo dire che non è che il granaio, se sono stato chiaro nella mia metafora, certo, professore, escluda il grano che c'è nel sacco, anche quello, semmai si tratterà di vedere che consistenza abbia la tela del sacco. Certo, però sa che dobbiamo chiudere, professore, lei ha lanciato una provocazione che meriterebbe un'altra ora, ma dobbiamo chiudere. E quindi io la ringrazio di essere stato con noi e di aver posto anche questo bellissimo quesito alla fine. Poi un giorno parleremo di quel granaio. Io vorrei ringraziare la professoressa Testoni e vorrei ringraziare lei, professor Severino, ovviamente sempre gli ascoltatori. Un cordiale saluto quindi da Armando Turno, vi do appuntamento come sempre domenica prossima. E da... Saluto da Emanuele Severino. Un saluto e un abbraccio da Ines Testoni.